Radio Città Fujiko e l'Università Primo Levi presentano Guida all'ascolto della musica classica, tre secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. Debussy, a differenza di quello che fa Beethoven, di quello che fa Chopin, di quello che fa Liszt, comincia a inserire all'interno del percorso armonico delle note che potremmo definire estranee. Ora, per tutto quello che è stato la storia della musica del Novecento, i compositori del Novecento hanno dimostrato che non esiste nessuna nota, tra virgolette, estranea. Però una certa estraneità c'è per alcune note. Mi spiego. Una determinata tonalità ha tre note importanti, che sono la prima, la terza e la quinta. Rispetto a una scala Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, se noi prendiamo la tonalità di Do maggiore, la prima, Do, Re, Mi, la terza nota, Fa, Sol, la quinta, Do, Mi e Sol, sono le note più importanti di quella tonalità. Se noi usiamo queste tre note, abbiamo una tonalità maggiore che dà un senso di serenità, di positività. Se ne spostiamo una, invece di avere un Mi naturale, abbiamo una nota vicino, il Mi bemolle, cambia completamente il colore, diventa quasi triste, diventa più scura. Questo succede perché, senza entrare troppo nel particolare, il nostro orecchio, quando noi suoniamo una nota sola, recepisce delle risonanze che sono implicite nella nota che stiamo sentendo. In questa nota le onde si muovono per cerchi, è come se questa nota andasse a recuperare questa, che è la stessa nota, è sempre un Do, un'ottava sopra. Poi c'è il Sol, che è quella che era la quinta nota della scala, ritroviamo un altro Do, sempre la prima, e poi abbiamo la terza nota. Ogni volta che noi ascoltiamo una nota sola, è come se in maniera inconscia sentissimo anche queste. Queste sono gli armonici naturali di ogni singola nota che noi suoniamo. Se noi andiamo in uno studio di musica elettronica e sentiamo una nota del pianoforte spogliata di questi armonici naturali, che noi non percepiamo se non inconsciamente, ma lo sentiamo solo come nota a sé stante, l'effetto è estremamente deludente, è un effetto di povertà, di qualcosa di asciutto. Manca. Qua dentro c'è anche questo. Comunque c'è, non la percepiamo distintamente, ma il nostro orecchio la sente. Ecco, queste note sono quelle che vengono naturalmente, che riverberano naturalmente. Se però insieme a queste note mettiamo delle note che non sono naturalmente riverberate, le percepiamo come note diverse, come note stonate, strane, come note che non c'entrano con quello che stiamo ascoltando. Ed è sorprendente il fatto che è una banalità, ma da questa nota vi dicevo che le note naturali sono questa, che è di nuovo la prima, la quinta, un'altra volta la prima e la terza, che è però la terza maggiore, un colore positivo, un colore chiaro. Basta che noi mettiamo la terza minore, questa nota che non fa parte degli armonici naturali, chissà perché la percepiamo come triste, a volte tragica. Non le diamo un valore aggiunto, semmai un valore che va verso qualcosa di negativo. È diversa dal resto e quindi è più malinconica, è più povera, è più cupa. Ma solo per fatto psicologico nostro, il nostro preconcetto ci dice questo. Con Debussy queste note estranee vengono utilizzate non come elemento di dissonanza, ma come un arricchimento, come un modo per rendere ancora più interessante il colore proposto. In pratica è come se un pittore avesse avuto fino a quel momento a disposizione il giallo, il rosso, il blu. A un certo punto si accorge che può ottenere l'arancione, riesce a mescolare e ad avere o un rosa pallido o un verde più acceso piuttosto che un verde più blando. Può ottenere una tavolozza di colori molto più varie e anzi è come se poco a poco il tratto di un dipinto non fosse più netto, ma i colori confluissero uno nell'altro, creando un'immagine ancora più interessante rispetto a quello che fino a quel momento si conosceva. E quindi questo brano, la Rada Ri, presenta questa armonia, che è un sol minore, ma dove all'interno c'è questa nota. Se le suono tutte insieme, non stanno bene. Poi si passa a fa maggiore, ma in mezzo ci mette questa nota, che non c'entra con queste qua. Poi si passa a do maggiore, ma ci mette questa. Sono tutte forme di leggera cacofonia, che però portata con un certo colore, con un certo colore sonoro, in realtà arricchisce l'intenzione musicale del compositore. È un primo accenno di quello che sarà l'impressionismo in musica. Ecco, ora vi faccio sentire un altro brano, che è appunto Clair de Lune. Un brano che Debussy scrisse alla fine degli anni Ottanta, però venne pubblicato nel 1904 e, a differenza della Rêverie, venne pubblicato nel 1904 e Debussy lo inserì all'interno di una serie di lavori. Sono quattro brani, la suite già dall'epoca barocca è un brano che comprende più brani, di solito erano danze. Debussy scrive la suite Bergamasque in quattro parti e il terzo, che doveva essere una danza, lo sostituisce con il Clair de Lune, brano scritto nel 1889, ma che evidentemente Debussy ritiene rappresentarlo anche 15 anni dopo. Le cose principali sono che Debussy chiama Chiaro di Luna un brano che di ombroso non ha nulla, è un brano in re bemolle maggiore. Una tonalità aperta, delicata se vogliamo, ma in qualche modo solare. Sembra quasi che del Chiaro di Luna, in realtà, Debussy voglia mettere in evidenza la luce più che il buio della notte. In più, ottiene questo effetto di luminosità scrivendo la melodia in questo modo. Che la melodia è scritta per accenni, una luce qui, un'altra luce qui, poi. Se fosse stata scritta da un compositore russo o forse da un compositore non di genio come Debussy, ci sarebbe stato un accompagnamento banale. Questa linea melodica sarebbe stato aggiunto un accompagnamento che avesse sempre sorretto la melodia, qualcosa del genere. Invece Debussy non scrive un accompagnamento, scrive delle note che facciano da sostegno, ma è un sostegno solo quasi puntilista, soltanto dei minimi accenni. In pratica c'è già tutto, c'è la melodia, c'è l'accompagnamento, ma non è un accompagnamento prevedibile, è come se fossero piccole lampadine che si accendono e che illuminano un'idea di notte illuminata dal chiaro della luna. C'era un libro che poi ho ritrovato recentemente, è un libro scritto per i bambini, dedicato ai compositori della musica classica. È un libro che dice delle cose vere, ma ovviamente le rapporta a un linguaggio che possa essere comprensibile per bambini in età della scuola elementare. Per quanto riguarda Debussy, a un certo punto scrive che di Debussy non c'erano opere scritte prima del 1900 perché Debussy le aveva bruciate tutte. Tutto sommato è chiaramente un falso detto così. In realtà un fondo di verità c'era e serviva magari per rendere l'idea, soprattutto in un bambino, di cosa potesse voler dire rinnegare i propri lavori. In pratica Debussy è vero che dal 1900 in avanti, quindi negli ultimi 18 anni di vita, non apprezza più le cose scritte prima del 1900 e quindi questi lavori o non vennero pubblicati, quindi pubblicati solo successivamente, dopo la morte di Debussy stesso, oppure in qualche modo quando pubblicati, come il caso dell'Arabesque, pubblicata da Durand nel 1891, esaurita la prima copia, non venivano poi ripubblicati successivamente, perché lo stesso compositore evidentemente non aveva interesse o piacere che venissero associati al proprio nome. Quale fu l'elemento che fece sì che Debussy in qualche modo rinnegasse la propria produzione pre-1900, quasi come fosse stata una folgorazione sulla via di Damasco? Fu effettivamente un fatto che a Parigi nel 1900 ci fu un'altra esposizione universale, che fu probabilmente la più importante tra le Expo fino ad oggi. Basti pensare che venne visitata da 50 milioni di visitatori tra aprile e ottobre del 1900. L'unica città che riuscì a eguagliare Parigi successivamente fu Osaka nel 1970 con 50 milioni di visitatori. Ma nel 1970 c'erano gli aerei, ci si muoveva con molta più rapidità, si poteva pensare di andare in una città e rimanerci qualche giorno. Nel 1900 no, significava letteralmente migrare per andare a stare un po' di tempo in un luogo diverso. Ecco, Parigi nel 1900 ebbe 50 milioni di visitatori e fu l'anno della prima linea di metro, della costruzione del Grand Petit Palais, del ponte Alexandre Trois, e nell'Expo del 1900 la conoscenza per gli artisti francesi e non solo dell'arte orientale, di quel tipo di arte sia visiva sia sonora che non conoscevano. Basti pensare che alcune tra le più celebri opere dedicate all'Oriente, Schumann scrisse per pianoforte i Bilder aus Osten, i quadri dall'Oriente, ma è musica romantica. Il più grande lavoro sinfonico di Rimsky-Korsakov, Scheherazade, si rifà ai racconti delle Mille e una Notte, racconti che comunque scritti in Occidente si rifanno a un'idea di Oriente ed è a tutti gli effetti una musica perfettamente inserita nell'ambito della scrittura romantica. Nel 1900 i compositori conoscono quelli che sono i percorsi armonici, melodici, percorsi che utilizzano abitualmente i quarti di tono. Noi nella nostra scrittura utilizziamo dall'epoca barocca in avanti il semitono come divisione minima, cioè il tono do re e il semitono do diesis re. La nota che sta in mezzo tra il do e il re è il semitono ed è la suddivisione più piccola che il nostro orecchio si è abituato a percepire. Nella musica orientale ci sono i quarti di tono, i terzi di tono, gli ottavi di tono, che sono infinitesimali, per noi è una variazione quasi impercettibile. E poi i suoni degli strumenti, gli strumenti a percussione o gli strumenti gamelan, strumenti che attraverso delle percussioni producevano delle melodie. Per noi la melodia era con il violino, con il flauto, con il pianoforte, ma non con strumenti che potevano essere tipo dei tamburi. In un periodo di grande crisi per la composizione, con Wagner tutto quello che era la possibilità di movimento delle armonie, le armonie vi dicevo prima, prendiamo un'armonia ipotetica Do maggiore, un compositore usando Do maggiore poteva usare delle armonie affini e da lì cominciare ad allontanarsi dalla casa madre, da Do maggiore, per poi trovare sempre la strada del ritorno. E da Mozart, da Haydn in avanti fino a Wagner, i compositori cominciano a esplorare sempre strade nuove, ma tornano sempre poi a casa. Però cominciano a esplorare talmente tante strade che praticamente con Wagner non ci sono più strade nuove da immaginare. E quindi per i compositori significava o continuare a percorrere le stesse strade, trovando forse anche nuovi spunti, nuovi stimoli, ma in ogni caso nelle stesse strade già conosciute, oppure con Schoenberg comincia a immaginare un nuovo tipo di linguaggio, la dodecafonia, e con i compositori francesi degli stessi anni, prima decade del Novecento, approfittando di quello che sentivano arrivare dall'Oriente, immaginano con Debussy per primo una nuova tipo di scala, che non è più la scala Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ma quella che è una scala esatonale. Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis, La diesis e Do. Prima vi dicevo che il nostro sistema musicale è diviso in semitoni, dal do all'altro do, do, re, mi, fa, sol, la, si, ci sono 7 note, però queste 7 note sono divise in 12 semitoni, do, do diesis, re, re diesis, mi, fa, fa diesis, sol, sol diesis, la, la diesis, si, 12. Debussy immagina una scala che invece di utilizzare le 7 note senza tener conto dei semitoni che si inseriscono in mezzo, utilizza solo i toni e quindi do, re, mi, fa diesis, sol diesis, la diesis e poi si arriva al do. Quindi in pratica abbiamo 6 note nella scala e queste 6 note messe tutte insieme creano un qualcosa di indefinito, ma che è un qualcosa di assolutamente nuovo per l'orecchio. Se prima vi dicevo che nella Reverie Debussy comincia ad aggiungere note estranee a quello che è l'armonia, in questa armonia di sol minore aggiunge questa, che apparentemente va un po' a sporcare il colore del sol minore, e rispetto a fa maggiore aggiunge questa, che va a sporcare la purezza del fa maggiore. Ecco, con una scala di 6 toni verrebbe da dire non c'è più niente di intonato e non c'è più niente di stonato, è tutto su un altro piano di comunicazione. Da quel momento Debussy, e non solo, comincia a utilizzare questa nuova tecnica compositiva. Ecco, il primo brano che vi faccio sentire di questo nuovo periodo di Debussy è un preludio. Debussy, che nel 1909-10 viene ingaggiato da Durand, questo editore estremamente importante per la Parigi dell'epoca e ancora oggi importantissimo, viene ingaggiato per revisionare tutta la produzione di Chopin, per fare una sorta di edizione critica a tutto quello che era stato pubblicato da Chopin, dalla Durand stessa e da altri editori, ma con un tot di anni dalla morte c'era il dominio pubblico delle opere di Chopin. Debussy, che quasi si riavvicina a quello che era il compositore che aveva lasciato orfana a Parigi nella seconda metà dell'Ottocento, e quasi per imitazione comincia a comporre due raccolte di preludi, scrive notturni, e Chopin ha lasciato due raccolte di 12 studi, i 12 studi opera 10, i 12 studi opera 25. Debussy scrive una prima raccolta di 12 studi, poi nel 18 morirà in tempi molto brevi per malattia, forse ci sarebbe stata probabilmente una seconda raccolta di altri 12 studi. Quindi Debussy che guarda a Chopin come l'autore che in qualche modo aveva rotto degli schemi. In questo caso qual è lo schema? Il fatto che il preludio con Chopin non prelude a nulla. Il preludio era il brano che anticipava il brano più importante, la fuga, in Bach, preludi e fuga. Era il brano che anticipava la serie delle danze componenti una suite. In una suite di 6 brani, il primo brano era sempre il preludio, seguivano le altre 5 danze in un'opera. Il preludio dell'orchestra anticipa poi tutto quello che avverrà nell'opera. Con Chopin il preludio diventa un brano autonomo, un brano che non anticipa qualcosa, ma è un brano a sé stante, quasi come se con Chopin fossero delle istantanee di qualche emozione. Forse preludono all'idea dell'emozione, ma non lo sappiamo. In ogni caso sono brani che hanno una loro vita, una vita che dura quel tempo musicale. Ecco, con Debussy, che scrive 24 preludi nell'arco di 3 anni, i preludi hanno un titolo, cosa che con Chopin solo alcuni preludi hanno un titolo. Ecco, con Debussy i preludi hanno un titolo. In questo caso è Voile, vele o veli, non è specificato, non è chiaro se si intenda le vele delle barche o i veli intesi come tende. L'unica cosa che Debussy ha lasciato scritto è che questo preludio non deve far pensare a una cartolina del 15 agosto, proprio testuali parole. È chiaro che detto così fa pensare che non debba far pensare a una scena di mare intesa nel modo più banale, però può voler anche dire che non si deve pensare alle vele delle barche, quindi solo all'idea di veli. Al di là di questo, è un preludio che, salvo poche battute, quindi pochi secondi, è scritto in modo interamente esatonale. Non c'è una nota dell'armonia che sia fondamentale, ma ogni nota è sospesa ed è allacciata alle altre. Ecco, la cosa per concludere il discorso sui preludi di Debussy più rilevante è che se uno prende qualsiasi edizione dei preludi di Debussy, volta pagina, c'è lo spartito e in fondo puntini, puntini, puntini e il titolo. Ora, non fu una coquetteria dell'editore, fu proprio Debussy a volere che il titolo fosse messo in fondo. Il preludio con Debussy è veramente il preludio a qualcosa di infinito, che è l'emozione che il preludio dà al titolo che uno poi vive. Prima di suonare questo preludio, mi viene in mente una frase di Leopardi, tratta da, la parafraso però, non mi ricordo le parole esatte, comunque tratta dallo Sdilaldone. Quando noi guardiamo una chiesa, guardiamo un campanile, sentiamo il suono di una campana, non vediamo solo una chiesa, non vediamo solo un campanile, non sentiamo solo il suono di una campana. Vediamo due chiese, vediamo due campanili, sentiamo il suono di due campane. Una è la chiesa reale, il campanile reale, il suono reale. E quello ci interessa poco. Quello che importa è il campanile che vediamo dentro di noi, è la campana che sentiamo dentro di noi, è la chiesa che vediamo dentro di noi, che ci accompagna sempre. In Debussy, il brano musicale prelude al titolo. E quel titolo ha un'espansione che va al di là delle note, ha una durata infinita, quanto decidiamo noi. Due brani per pianoforte a quattro mani. Questi due brani sono uno preso dal periodo pre-Novecento, quindi un brano scritto dal giovane Debussy, un brano che comunque ebbe buona fortuna perché venne poi ritrascritto anche in vari modi, varie strumentazioni, ed è una marcia scozzese che Debussy scrisse su commissione, la musica scritta per il pane, quindi per un guadagno. Però praticamente per questi nobili che volevano celebrare un loro antenato scrisse questa marcia, che è quasi una processione, ma una processione che a poco prende il carattere di danza brillante. Ecco, Debussy utilizza delle figure sia ritmiche sia melodiche che richiamano alla musica celtica. In particolare la danza finale, quasi una sorta di brigadon, richiama quello che era l'idea della musica antica dell'area britannica. Il secondo brano è uno dei massimi esempi della scrittura del primo Novecento ed è il Prelude alla Prémédita en Fond, uno dei brani più importanti di tutta la storia del repertorio sinfonico. Cominciamo con questa marcia scozzese. Questo brano è diviso in tre parti. Una prima parte che è una sorta di introduzione, un'introduzione che poi sfocia nel tema. Una seconda parte, la parte B, che è una parte più calma, più sognante, e poi c'è questa danza finale, che è la parte C, una danza finale estremamente briosa, estremamente agile e, se vogliamo, anche impetuosa. La cosa più rilevante, a mio avviso, di questo brano è la parte B, la parte centrale. È rilevante per un motivo, perché ha dei movimenti armonici e melodici che sono letteralmente un germoglio di quello che è la musica jazz, non tanto dal punto di vista ritmico, ma proprio dal punto di vista della linea melodica sulle armonie presentate. Ed è un brano scritto nel 1889, quindi niente a che vedere con quello che poteva essere la conoscenza della musica nera arrivata poi negli anni 20 a Parigi. Un'idea di musica jazz, non tanto perché Debussy avesse avuto un'influenza da questi musicisti, ma quello che può avere ispirato un certo modo di scrivere la musica negli Stati Uniti del primo Novecento. Probabilmente se avessi spacciato questo accompagnamento per un brano di Gershwin, probabilmente ci stava, e Gershwin è di molti decenni posteriori, ma con la melodia sopra diventa ancora più evidente. è il preludio alla Premeditation, un vero gioiello della musica sinfonica, un brano che dura 11 minuti ed è impressionante come un brano di una durata per un repertorio sinfonico così breve sia diventato uno dei punti fermi della musica sinfonica. È un brano che ha come elemento preponderante il flauto, che ha questa linea melodica. Del resto il preludio è immaginato per questo fauno che suona il flauto. Questa melodia la ritroveremo lungo il percorso, un brano dove la melodia ritorna ciclicamente, e avete sentito come in realtà è una melodia che non ha un appoggio tonale sicuro. Viene presentata, anzi, sotto diverse forme tonali lungo il percorso, ma in pratica sono note che girano attorno a questo do diesis e si muovono lì. Intorno a quella nota centrale, ma senza un impianto tonale chiaro. La cosa sorprendente è che questo brano è stato trascritto per pianoforte a quattro mani da Maurice Ravel, che è stato molto probabilmente il più grande maestro di musica sinfonica della storia degli ultimi tre secoli, forse lui e Rimsky-Korsakov, coloro che hanno saputo meglio orchestrare dei lavori sinfonici. Ravel ha praticamente scritto un trattato di orchestrazione, non con parole ma con suoni, attraverso il bolero. Questo brano di quasi un quarto d'ora di musica che presenta una unica cellula tematica che viene ripetuta come un ostinato, quello che in musica si definisce ostinato, quando viene ripetuta continuamente, ma ogni volta con uno strumento diverso e partendo dai primi flauti fino ad arrivare al pieno di tutta l'orchestra, ma al pieno di tutta l'orchestra contando di percussioni, arpa, sassofoni e via dicendo, arriva a creare da un suono minuscolo, proprio quello che è il più che pianissimo, arriva a creare un fortissimo gigantesco, non costringendo i musicisti a suonare più forte, ma semplicemente unendo le forze e i colori degli strumenti, l'amalgama degli strumenti utilizzati creano questo aumento di sonorità. Ecco, Ravel, che era un maestro del sinfonismo, prende questo lavoro sinfonico di Claude Debussy e lo scrive per pianoforte a quattro mani. Lui che aveva trascritto per orchestra i quadri di un'esposizione di Mussorgsky, brano celeberrimo per pianoforte, scritto da Mussorgsky anche per orchestra, ma raramente viene eseguita la versione di Mussorgsky perché tutto sommato era uno straordinario compositore, ma non per questo un sinfonista di grandissimo pregio. E Ravel mette le mani su questi quadri e ne fa un gioiello della musica sinfonica. Ecco, Ravel che evidentemente rimane così tanto affascinato dalla scrittura per orchestra che Debussy produce con questo Premedì da immaginare una versione casalinga, una versione che potesse essere fruita da tutti, anche dagli amatori che volevano eseguirlo a casa propria. Avete ascoltato? Guida all'ascolto della musica classica. Tre secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. Trasmissione realizzata da Radio Città Fujiko in collaborazione con l'Università Primo Levi e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.